2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 18 e 19 luglio 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Ma c'è un modo ancora più veloce per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, ovvero quello di iscriversi al servizio podcast. Potete utilizzare un software apposito, come ad esempio iTunes, e una volta fatto l'abbonamento, ma si tratta appunto di una questione tecnica molto semplice, una volta sottoscritto il servizio podcast potete scaricare automaticamente settimana dopo settimana il file della nostra trasmissione. Tutto è molto semplice, ma se non trovate la strada giusta per iscrivervi, insomma, se avete qualche dubbio potete scriverci una email e vi spiegheremo come fare. Più tardi avremo ospite nei nostri studi il capo della Polizia Postale delle Comunicazioni, il dottor Domenico Vulpiani, per parlare di sicurezza, anche dell'attività che la Polizia fa sul territorio italiano, ma soprattutto sulla rete italiana. Sicuramente una delle notizie più importanti di questa settimana riguarda la Microsoft, che ha incontrato gli sviluppatori negli Stati Uniti, quindi ci sono parecchie notizie che riguardano questa azienda. Quella che per alcuni potrebbe costituire la risposta di Microsoft alle ultime mosse di Google, se il più importante motore di ricerca, lo ricordavamo la settimana scorsa, ha intenzione di entrare nel mercato dei sistemi operativi, che è un po' il cuore del business di Microsoft, e ha anche da tempo lanciato la sfida nei servizi di produttività da ufficio via web, quindi in qualche modo attaccando un altro dei business della Microsoft. Bene, a questa strategia risponde la Microsoft, che dal 2010 metterà a disposizione Office, quindi il pacchetto Office, che si chiamerà proprio Office 2010, anche gratuitamente online. Ci sarà naturalmente una versione tradizionale del popolare pacchetto da ufficio, ma anche una versione utilizzabile gratuitamente via internet, che dovrebbe comprendere Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Chiaramente saranno versioni molto più semplici rispetto a quelle che si installano sul proprio computer, ma saranno gratuite, quindi pensate alle funzioni di Word e di quanti utilizzano una parte minima di queste funzioni, quindi è sufficiente anche una versione molto più semplificata rispetto a quella che si può installare sul computer. Ancora non è chiaro se all'interno di questa offerta verrà veicolata pubblicità, ma è molto probabile che in cambio di un servizio gratuito la Microsoft, come del resto fa Google, metta messaggi pubblicitari e quindi sostenga questo business con la pubblicità. Da notare che questi servizi dovrebbero essere utilizzabili attraverso Internet Explorer, quindi il browser di navigazione web della Microsoft, naturalmente, e anche grazie a Firefox e Safari della Apple, e non attraverso Chrome di Google, perché naturalmente il nemico da combattere in questo segmento è Google, quindi questi servizi non saranno utilizzabili attraverso questo browser. Ci sono, come dicevo, altre notizie che riguardano Microsoft, che in autunno aprirà alcuni negozi con il proprio marchio. Da un po' si discute e si parla di questa possibilità, quindi c'è stato l'annuncio: dal prossimo anno ci saranno alcuni negozi targati Microsoft, e fin qui potremmo dire, insomma, una notizia interessante ma non eclatante. Curiosa è però la strategia che prevede l'apertura di questi nuovi punti vendita vicino a quelli della Apple, quindi uno passeggiando incontrerà il negozio di Apple e vicino il negozio della Microsoft, oppure viceversa. In alcune grandi città naturalmente verranno aperti questi negozi e si partirà dagli Stati Uniti. E mentre Microsoft si appresta anche a lanciare un servizio di streaming musicale, probabilmente dalla Gran Bretagna, intanto negli Stati Uniti stenta a decollare Bing, il motore di ricerca lanciato all'inizio di giugno, ricorderete la notizia. La quota di Microsoft sul mercato delle ricerche online negli Stati Uniti ha raggiunto l'8,4%, è salita di un pochettino, il tutto a scapito di Yahoo, la cui quota si è ridotta dal 20,1 di maggio al 19,6 di giugno. Insomma, non grandissimi sono i movimenti, c'è anche chi dice che bisognerà aspettare alcuni mesi per vedere che cosa succede nel mondo della ricerca. Intanto Google ha mantenuto invariata la propria quota di mercato, che negli Stati Uniti è al 65%. A proposito di Google, tra poco parleremo di Android, il sistema operativo, l'altro sistema operativo potremmo dire, quello che è già stato lanciato in attesa di vedere il sistema operativo Chrome per i computer che arriverà il prossimo anno. Dicevo, parleremo di Android, il sistema operativo per smartphone, quindi per telefonini evoluti, che sta avendo un buon successo e ne parleremo appunto tra poco. Intanto una notizia che riguarda Nokia, che ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con vendite sotto le attese e ha rivisto al ribasso le previsioni sulla quota di mercato per il 2009. Gli utili sono crollati del 73% e il fatturato del 24,6%. Secondo l'amministratore delegato di Nokia, Olli-Pekka Kalasvuo, la performance dell'azienda è comunque da considerarsi solida, tenendo conto del contesto di mercato che resta molto difficile. Quindi i conti non vanno benissimo, ma visto quello che sta succedendo attorno, dice Olli-Pekka Kalasvuo, insomma le cose sono da considerarsi positive. Nokia si attende una possibile moderata ripresa nel prossimo trimestre. Ricordiamo che Nokia comunque rimane il più grande produttore di telefonini al mondo. L'azienda finlandese ha una quota di mercato che è del 38% e del 41% nel più piccolo ma molto ricco mercato degli smartphone. Nokia ha anche dato un parere sull'andamento del mercato, che per il 2009 è previsto in flessione del 10%. Qua parliamo di mercato generale della telefonia mobile. Conti che più o meno tornano con le previsioni che venivano fatte qualche mese fa, alcuni le facevano già all'inizio di quest'anno, vedremo poi se verranno confermate dai dati nei prossimi mesi. Altri conti interessanti per il mercato riguardano Intel, che ha battuto le previsioni degli analisti e che quindi per alcuni fa sperare in una ripresa imminente del mercato IT. Ma c'è da dire che i conti sono spinti soprattutto dai consumatori che comprano in particolare netbooks, quindi questi piccoli computer che costano meno, quindi ci si sposta su un computer, si compra sempre un computer, ma invece di comprare un computer tradizionale portatile da 1.000-1.500 euro si scelgono questi prodotti che costano molto poco, 300-400 euro, fanno molte cose ma certo non hanno le caratteristiche dei computer più importanti. Dentro però molto spesso c'è un Atom, quindi un chip di Intel. Anche in questo segmento, anche in questo mercato potrebbero cambiare le cose perché ci sono vari movimenti, ma al momento sicuramente Intel vende molto bene in questo segmento di mercato. Timidi segnali positivi arrivano dai dati di Gartner, che ha calcolato le vendite di PC nel secondo trimestre dell'anno in tutto il mondo. Le consegne sono calate del 5% rispetto al 2008, ma anche in questo caso si guarda al contesto del mercato, il dato è comunque migliore delle previsioni, quindi ci si accontenta anche di un meno 5%. HP rimane il primo produttore al mondo di computer e consolida il primato salendo al 19,6% del mercato. Dietro ad HP alcuni dicono che sia imminente il sorpasso di Acer su Dell, e vedendo i conti e vedendo come vanno le quote di mercato effettivamente pare proprio che dal prossimo trimestre si possa dire che Acer sarà il numero 2, per il momento è il numero 3. L'azienda taiwanese è comunque cresciuta del 34%, arrivando ad una quota del 13,5%, ad un passo dall'americana Dell, che ha perso il 17% fino al 13,6%. Ma se pensate a quello che dicevamo poco fa, cioè che gran parte della spinta delle vendite arriva dal mercato consumer, dei consumatori, e ben poco dalle aziende, si capisce molto bene perché Acer vada così bene a scapito di Dell. Dell è specializzata e focalizzata soprattutto sul mercato corporate, quindi delle grandi aziende, mentre Acer ha una forte presenza nel mercato dei consumatori e in modo particolare ha circa la metà del mercato dei netbooks, quindi quel segmento di mercato va molto bene e di conseguenza si vedono le buone vendite che ha fatto Acer nell'ultimo trimestre. Bene, dicevo che adesso ci occupiamo, vogliamo parlare di Android, questo sistema operativo che sta avendo un buon successo sul mercato. Naturalmente parliamo anche di smartphone. Saluto il nostro esperto di telefonia mobile Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine e anche di Smartphone Magazine. Massimo, bentornato 2024. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Stiamo parlando di sistemi operativi soprattutto e anche di smartphone, perché i sistemi operativi, che sono il cuore pulsante di questi nuovi telefoni, stanno diventando sempre più importanti. Allora, giusto per chiarirci, gli smartphone sono ancora, mi sembra, una quota parte minore nel grande mercato della telefonia mobile, ma sono i telefoni sicuramente del futuro, cioè tra qualche anno saranno tutti smartphone, non faremo più differenza con i telefoni normali, e soprattutto sono quelli per gli utenti sui quali si possono fare molte più cose, si possono fare tante cose, collegarsi ad internet, installare programmi, eccetera, eccetera, e per i produttori di telefonia sono quelli dove ci si guadagnano più soldi. Aggiungerei anche che per invece gestori di telefonia sono quelli dai quali si possono ricavare qualche soldo in più, perché appunto ti permettono di collegarsi ad internet, quindi possono tariffare lo scambio dati. Ho detto qualche cosa che non va? No, hai detto benissimo. Della grande fetta della telefonia mobile, gli smartphone sono il segmento in maggiore crescita rispetto ai cellulari tradizionali. Sono anche i telefoni più evoluti, quelli più multimediali, quelli con cui si possono fare più cose. Ed è vero che sono anche i telefoni che si collegano, che dialogano meglio con il web, che quindi con tutti i servizi web, e che quindi fanno anche guadagnare qualche soldo in più agli operatori. Con questi telefoni ovviamente supportano i servizi più nuovi che sono stati creati per la telefonia mobile. Quindi tutti guardano agli smartphone. Beh, del resto voi avete fatto da ormai un paio di anni forse Smartphone Magazine, proprio perché guardate con attenzione a questo mercato. Oggi abbiamo pensato di dedicare il nostro approfondimento ad un sistema operativo, poi ne parliamo più approfonditamente, ma perché il sistema operativo diventa sempre più importante in un telefonino? Beh, perché a seconda di quanto il sistema operativo è evoluto, l'utente ha a disposizione un determinato pacchetto di servizi. E poi perché? Perché si tenta, ovviamente tutti quelli che hanno creato un sistema operativo hanno cercato in qualche modo di creare una community di utenti, poi che si ritrovassero anche su terminali diversi, perché poi i sistemi operativi vengono integrati dalle case produttrici su terminali di diversi marchi. In questo caso oggi stiamo parlando di un sistema operativo nuovo, il più nuovo, che è Android, e che non è un sistema operativo qualunque, perché è l'OS creato da Google. Ed è un po' la navicella di Google per arrivare nel mondo della mobilità. Qui l'obiettivo e il tentativo è stato quello di creare una vera e propria piattaforma comune per i cellulari, per permettere a tutti gli utenti di condividere i servizi internet, tutti ovviamente, non solo quelli di Google, ma anche in modo molto chiaro quelli di Google naturalmente. Certo, se vogliamo così dare uno sguardo al mercato, possiamo dire oggi che la maggior parte degli smartphone hanno come sistema operativo Symbian, è corretto dire così? Direi che è assolutamente corretto. Che è molto legato a Nokia. È molto legato a Nokia, anche se è comunque impiegato da altri marchi come ad esempio Samsung, come LG, però è legato a doppio filo a Nokia. Tutti gli altri sono ovviamente i concorrenti che sono arrivati per combattere lo strapotere e il predominio di Nokia, quindi parliamo naturalmente di Windows Mobile, che c'è da parecchi anni, parliamo ora di Android, parliamo di Palm, parliamo oggi anche dell'OS di Mac, che è arrivato attraverso l'iPhone sui telefonini. Ecco, noi oggi vogliamo dedicare questo approfondimento, dicevo, ad Android perché, innanzitutto è multi-brand, cioè questo è un sistema operativo che punta ad essere installato su tanti telefoni diversi, mentre ad esempio il sistema operativo di Apple, che funziona molto bene ma è dedicato solo ai telefoni di quella marca, questo è un sistema operativo un po' come Symbian, ma con un'ambizione ancora maggiore, punta ad essere installato su molti più telefoni di tante marche. Stiamo parlando di Android, il sistema operativo per smartphone lanciato da Google all'interno della Open Handset Alliance, quindi c'è sicuramente Google come capofila di questo progetto, poi anche tutta una serie di altri soggetti. È con noi Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine e di Smartphone Magazine, che tra l'altro in questa edizione, nell'ultima edizione di queste riviste, pubblica uno speciale proprio dedicato ad Android, quindi con tutte le caratteristiche. Allora Massimo, ne stiamo parlando perché effettivamente questo sistema operativo sta ottenendo un buon successo. Nei prossimi mesi usciranno anche nuovi telefoni con questo software, poi parleremo anche dei prodotti. Due o tre caratteristiche, novità di Android. Ma dunque, c'è da dire innanzitutto questa operazione avvolgente che è stata fatta creando la Open Handset Alliance, che racchiude non tutti i produttori che poi installeranno prima o poi un sistema operativo Android nel loro telefono. Parliamo, a parte se escludiamo Nokia, che ovviamente integra il suo Symbian, parliamo dei più grandi produttori di telefonini al mondo, quindi Samsung, LG, Motorola, Toshiba, e poi naturalmente anche produttori di software house, non solo produttori di hardware. Quindi questa è un'operazione molto molto importante. Cosa c'è di nuovo? Beh, come ti dicevo prima, la novità è sicuramente la freschezza di questo sistema operativo, che è semplice, è basilare, è facile da usare, è anche bello perché le icone sono disegnate bene. Sembra un po' banale dire che è bello ed è così interessante perché è nuovo, ma non lo è affatto, perché è nuovo. E proprio perché da poco è nato per vivere nel mondo della mobilità, ha tutte le cose che servono per utilizzare i servizi più evoluti che oggi abbiamo nei telefonini in modo molto semplice e intuitivo. In realtà tutti ci raccontano, e questo è molto vero, che meno un sistema operativo in un telefono si vede, meglio il telefono funzionerà e più facile sarà per l'utente utilizzarlo. Android in questo caso si vede naturalmente, ma si vede poco, perché è fatto di schermate molto fluide che si muovono con un tocco di un dito. Non disdegna però la tastiera, perché comunque è prevista anche la tastiera nel sistema operativo Android. È multifunzione, è multitouch, e questo è molto importante perché ci sono dei piccoli sfizi che solo il multitouch sa realizzare, ed è altamente personalizzabile, sia dal punto di vista degli applicativi, sia dal punto di vista visivo, di colori, di icone, di personalizzazioni che sono molto semplici, ma che sono quelle spesso più richieste dagli utenti. Senti, c'è, alcuni dicono, un punto forte di Android e su questo punto Google sta spingendo. Di che cosa stiamo parlando? Beh, naturalmente è il market, l'Android market, che è l'application store di Android. Android è un sistema open source, quindi questo significa che la spinta verso gli sviluppatori per creare nuovi applicativi, molti dei quali gratuiti, e quindi riempire un negozio virtuale di applicativi che gli utenti possono scaricare sui loro telefonini, è fortissima. In questo momento ci sono un migliaio di applicazioni circa, ma teniamo conto che il market è partito da poco. Ma la cosa simpatica è che tutti gli sviluppatori si sono concentrati su applicazioni multimediali, su qualche applicazione business, ma anche su applicazioni ludiche assolutamente gratuite, che ti assicuro stanno facendo dei volumi di download fortissimi. Ti do un esempio su tutti, che sembra un po' sciocchino, ma è strascaricato anche dai manager: la spada laser, che è gratis. Di Star Trek. Esatto. No, quella di Guerre Stellari. Di Guerre Stellari, che tra l'altro è è assolutamente solo rappresentativa, insomma. Sì, sì, sì. In questo caso stiamo, cioè Google sta ripetendo, cioè, o meglio, sta tentando di ripetere un successo che ha avuto Apple e che sta continuando ad avere Apple con l'Application Store per l'iPhone, dico bene? Quello è, diciamo, un successo planetario che tutti hanno cercato di imitare. Non solo chi fa sistemi operativi. Tieni conto che oggi abbiamo, si è aperto l'Application Store di LG, abbiamo l'OVI di Nokia. Tutti i maggiori produttori stanno cercando di ritagliarsi una nicchia per far scaricare i propri utenti delle applicazioni. È una grandissima operazione di fidelizzazione del proprio consumatore. In questo caso, invece, trattandosi di un sistema open source, la cosa si fa un po' più interessante, perché veramente molto presto in questo market riusciremo a scaricare tantissime applicazioni di tutte le dimensioni, di tutti i prezzi, anche se i prezzi sono annunciati molto molto molto bassi ed economici, e soprattutto tantissime applicazioni gratuite. Su questo si punta molto. Sì, perché Google naturalmente vuole diffondere questo sistema per poi infilarci dentro i propri servizi. È tutto, va tutto a vantaggio di Google avere un prodotto all'interno del quale magari c'è nativamente il proprio motore di ricerca, uno fa una ricerca e vede la pubblicità di Google. Tieni conto che su questo sistema c'è la posta push gratuita, che non è poco. Ovviamente ci sono tutti i servizi di Google, c'è Google Talk, Latitude, la Gmail, naturalmente. Sì. Tutto quello che si ha nel computer si ha anche a disposizione in tasca. Posta gratuita inteso che qualcuno paga il traffico dati che io faccio? Assolutamente no. Posta gratuita, ecco, si intende che è necessario avere un account Gmail che si può controllare e gestire anche dal proprio cellulare come se si fosse davanti al proprio computer, e i messaggi arrivano in versione push direttamente senza doverli recuperare. L'applicativo, quindi, diciamo, push il servizio è gratis, ma i dati capito. Li paga l'utente. Ho capito. Senti, a livello di usabilità, questa è una parola che i tecnici usano spesso, visto che voi in redazione provate tutto, alcuni mi dicono, e in effetti provandolo uno se ne rende conto, che il sistema operativo dell'iPhone sia ad oggi il punto di riferimento, il più facilmente utilizzabile. Android a che punto è? Ma l'impressione che abbiamo avuto tutti è stato di un sistema operativo molto molto evoluto, molto facile da utilizzare. Le funzioni non sono nascoste, questa è una delle cose fondamentali in un sistema operativo, ma sono tutte lì. Dalla schermata principale, con una strisciata del proprio polpastrello sullo schermo, si raggiungono quasi tutte le funzioni, le impostazioni e le applicazioni che poi si scaricano sul telefono. Sono d'accordo con te, l'iPhone è anche in questo caso il faro, è la lepre che bisogna raggiungere, ma Android ha fatto un buon lavoro. Il sistema operativo è molto duttile, versatile, si muove molto bene. Come ho detto, il touchscreen è assolutamente preponderante, e devo dire che siamo solo alla prima versione. Con la prima versione si è fatto sicuramente un buon lavoro. Sicuramente uno dei vantaggi, lo dicevamo all'inizio, di questo sistema operativo è che punta ad essere multipiattaforma e multibrand. A parte Nokia, che va per la propria strada con Symbian, e Apple, che va per la propria strada con il proprio sistema operativo, c'è, mi sembra, ma poi appunto chiedo a te Massimo, che quasi tutti gli altri marchi, i grandi produttori di telefonia, abbiano annunciato o abbiano addirittura fatto uscire sul mercato, lo stiano per fare nelle prossime settimane, un prodotto che monta Android. Sì, guarda, in questo momento nei negozi ci sono tre prodotti. Due sono di HTC, che è il Dream, l'altro è il Magic, uno con la tastiera e l'altro con lo schermo touchscreen. E il Samsung Galaxy, che è stato presentato la scorsa settimana ed è immediatamente stato distribuito nei negozi. In arrivo a breve c'è lo smartphone Hero, sempre di HTC, ma a partire da metà estate, o meglio forse da settembre, è veramente attesa una pioggia di telefonini Android. Tutti i produttori stanno costruendo da un po' di tempo i primi smartphone Android. A partire da settembre noi vedremo tanti modelli di Samsung. Samsung è uno dei produttori che sta puntando di più su questo sistema operativo, pur avendo dichiarato che continuerà a produrre telefonini con gli altri sistemi operativi. Vedremo LG, vedremo Acer, vedremo Sony Ericsson entro Natale con un Android, e poi dovremo vedere, uso il condizionale, l'Android di Motorola. Motorola, che è un po' scomparsa dal mercato mondiale con i suoi modelli negli ultimi tempi, punta ormai il suo rilancio, tutto il suo rilancio sul modello Android, che comunque dovrebbe arrivare un po' prima di Natale. Bene, quindi vedremo sicuramente in autunno e riparleremo anche di questo tema nelle prossime puntate di 2024, perché il mercato sta diventando molto più concorrenziale. Beh, questo mi sembra, Massimo, sia anche un vantaggio per tutto l'ecosistema della mobilità, perché una volta, quando il sistema operativo era meno importante, non c'era tutta la concorrenza che stiamo vedendo oggi. Addirittura non c'erano nuovi soggetti che con la telefonia mobile fino a qualche tempo fa non c'entravano nulla: Apple e Google. È vero, e soprattutto Android ha dato un bello scossone a tutto diciamo il segmento dei sistemi operativi. Basta guardare a Nokia con il suo Symbian 5, che è diventato touch per la prima volta, le accelerazioni che sta prendendo lo sviluppo della nuova piattaforma dei Windows Phone, come si chiameranno, che è ora ancora Windows Mobile, e di tutto quello che sta succedendo attorno ad Android. Quindi penso che questa sia la nuova sfida dei telefonini. Quindi tutti a rincorrere da una parte Apple, perché forse per alcuni versi è stata quella che ha cambiato le carte in tavola, ma anche Google, perché sta facendo molto bene. Sicuramente vediamo un po' in difficoltà il mondo Windows Mobile, e anche Nokia, che sicuramente per certi versi sta rincorrendo queste nuove tendenze. Massimo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie, un saluto a tutti. Riprende 2024, seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30 e anche nella nostra versione estiva durante la domenica sera. Un buon ascolto su Radio 24, vi ricordo che il nostro programma è disponibile anche online su www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, quindi 2024, @radio24.it. Il nostro programma è disponibile anche attraverso il servizio podcast di Radio 24, online trovate tutte le informazioni e tutto è molto semplice, basta iscrivervi gratuitamente a questo servizio e da questo momento, da quel momento poi avrete la possibilità di scaricare gratuitamente e automaticamente settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Questo dà naturalmente una serie di vantaggi, potete riascoltarci quando volete, anche a pezzettini e anche dove volete, in tante situazioni dove magari non c'è una radio, ma con il vostro lettore di file MP3 potete portarvi in giro il nostro programma. Tra poco parleremo di sicurezza online, della polizia online, dell'attività che la polizia fa anche su internet. Adesso altre notizie interessanti della settimana. Una riguarda la pubblicità, non è un bel momento questo per la pubblicità, per chi raccoglie pubblicità e per chi vive di pubblicità. Secondo le stime dello IAB, lo IAB, l'Interactive Advertising Bureau, cioè l'associazione che riunisce i principali operatori nel mondo pubblicitario, nel mercato pubblicitario online, il mercato italiano della pubblicità crescerà nel 2009 del 10,5% e sarà l'unico settore della pubblicità in crescita, quello su internet. Secondo le ultime stime di Asso Comunicazione, nel 2009 gli investimenti pubblicitari in generale scenderanno del 21,5% nella stampa, quindi sulla carta, del 10,2% nella TV, del 9,4% nella radio e del 13,9%, quindi praticamente del 14% nelle affissioni. Quindi l'unico mercato che si salva, che crescerà alla fine dell'anno del più del 10%, sarà quello della pubblicità online. Vedremo poi se queste stime saranno confermate dai dati. Secondo recenti dati pubblicati da Cisco, l'utilizzo di reti a banda larga da parte degli utenti e il traffico globale su internet continua a crescere con tassi esponenziali, in larga parte a causa di un crescente utilizzo di media interattivi e anche dall'incremento di contenuti video su dispositivi diversi, soprattutto quelli mobili. Uno studio mostra anche come il traffico IP, cioè il traffico su internet, complessivo crescerà di 5 volte entro il 2013. Si parla di dimensioni misurate in exabyte, cioè 1000 petabyte, che a loro volta sono 1000 terabyte, insomma dimensioni che facciamo anche fatica a comprendere. Dopo gli exabyte ci sono gli zettabyte, insomma comunque dimensioni molto molto grandi. Come più volte abbiamo detto, il video è il principale veicolo di crescita di questo traffico. Secondo Cisco, entro i prossimi 4 anni tutto il traffico video su internet rappresenterà, pensate, il 90% del traffico generato dai consumatori. Bisognerà vedere a che punto sarà l'utilizzo del peer-to-peer fra 4 anni, perché sapete che un grosso peso nel traffico su internet è dato dal peer-to-peer, quindi bisogna vedere poi questo calcolo come è stato fatto, forse un po' esagerato. Un altro elemento che favorirà una forte crescita del traffico è il cosiddetto digital multitasking, cioè l'iperconnettività degli utenti nel corso della giornata attraverso più strumenti. Una volta magari ci si collegava ad internet solo con il computer di casa, oggi lo si fa sempre più anche con i telefonini, poi ci sono le TV che riescono a collegarsi ad internet, e tra qualche anno molti più strumenti saranno capaci di connettersi alla rete. Ricorderete che qualche anno fa uno studio internazionale delle Nazioni Unite parlava di internet delle cose, cioè tutti gli strumenti, ma anche quelli più impensabili che ci contornano, che saranno collegati in qualche modo alla rete internet. Anche per queste ragioni è naturalmente necessario pensare ad una rete di nuova generazione, e qua parliamo del dibattito che è in atto nel paese, anche in Italia, una rete più efficiente con maggiore capacità e anche velocità nel trasporto dei dati. A far crescere il traffico in rete poi ci pensano anche i cinesi, la cui popolazione web sta crescendo a ritmi impressionanti. Dall'inizio dell'anno le persone collegate ad internet in Cina sono cresciute di oltre il 13% e oggi sono 338 milioni. C'è chi ha fatto qualche calcolo e fa notare che oggi ci sono più cinesi che navigano in rete, quindi la popolazione attiva online cinese è più elevata rispetto agli americani residenti negli Stati Uniti, quindi sono più i cinesi che navigano rispetto a tutti gli americani. E dire che la penetrazione di internet nella popolazione cinese è di appena il 25%, mentre nei paesi più avanzati come gli Stati Uniti la diffusione dei collegamenti ad internet raggiunge 70 persone su 100, quindi il 70%. Cresce la popolazione della rete, cresce il traffico della rete, anche il business che si sviluppa online. In futuro, lo diciamo spesso, gran parte delle transazioni economico-finanziarie, ma non solo, transiterà attraverso le vie digitali, e già oggi questa percentuale è sicuramente molto, molto elevata, ma di queste cose, di questa crescita esponenziale, si sono accorti da tempo anche i criminali, non solo le persone che studiano, non solo chi naviga normalmente in rete, soprattutto i criminali più sofisticati che stanno spostando la propria attività online. Allora, tutti gli stati si stanno facendo molte domande su questo fenomeno già conosciuto da tempo. Naturalmente uno stato moderno deve anche pensare a proteggere i cittadini online, così come deve essere garantita la sicurezza dei cittadini per le strade della città, beh, è necessaria anche la polizia su internet. Allora abbiamo il piacere di ospitare oggi Domenico Vulpiani, che è direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Benvenuto a 2024. Grazie a voi, buonasera. Vorrei partire da alcune cose che sono successe nelle ultime settimane. Voi avete inaugurato un centro piuttosto complesso che si chiama Centro Nazionale Anticrimine Informatico, che si occupa del crimine informatico, ma ha anche un occhio di riguardo sulle infrastrutture del nostro paese. Partiamo da qua per capire, insomma, da questa struttura poi qual è l'attività anche della Polizia Postale in Italia. Bisogna fare una premessa: tutte le nostre attività ormai viaggiano sulla rete, ossia esistono fornitori di servizi che si servono di computer per erogare i servizi alla cittadinanza. Parlo dei servizi bancari, dei servizi di luce, di gas, di comunicazioni, la telecom. Sì, forse noi non ce ne accorgiamo, ma praticamente tutto ormai dipende da qualche computer in giro per l'Italia, forse anche nel mondo. Anche nel mondo, le nostre aziende ormai viaggiano all'estero. sono sempre più multinazionali, quindi offrono il fianco spesso a dati di attacchi informatici di qualunque genere, sia interni che esterni, magari anche interni volti a portare via il know-how. Noi pensiamo adesso alla Fiat, che ha comprato un'azienda come la Chrysler, è entrata, ha fatto un accordo, ha case di produzione in tutto il mondo e gli ingegneri di Torino devono trasmettere dati e quindi viaggia tutto sulla rete. Però c'è un altro fatto ancora più importante a monte di tutto questo, che tutte queste aziende sono ormai interconnesse. Cioè la Fiat dipende dalla Telecom per trasmettere i suoi messaggi, ma non solo dalla Telecom italiana, ma anche dalla Telecom francese e così via. E c'è un'interconnessione globale. All'interno di questa c'è un'interconnessione di reti italiana, che sono sempre più interdipendenti. Quello che si teme è che in un attacco informatico, magari di natura terroristica, tendente a inginocchiare un determinato settore di un paese, venga condotto nei punti nevralgici di questa rete, che ormai esiste e che dobbiamo prendere in atto. Con la legge antiterrorismo del 2005 è stata affidata alla Polizia di Stato e alla Polizia delle Comunicazioni il compito di proteggere queste infrastrutture critiche. La sala operativa che noi abbiamo inaugurato pochi giorni fa è dedicata esclusivamente alle aziende. Una sala operativa di polizia, una sorta di 113, dedicata esclusivamente agli amministratori di rete di tutte le aziende che hanno un valore infrastrutturale oppure strategico per il paese, qualcosa anche di più ampio. Potremmo dire che i suoi uomini sono poliziotti particolari, perché sono di fatto dei tecnici, degli ingegneri. La composizione ormai dei quadri della Polizia delle Comunicazioni è duplice. Da un lato abbiamo gente che viene dall'antiterrorismo, io sono un esempio lampante, io ho fatto 15 anni di antiterrorismo, 5 anni capo della Digos a Roma e poi ho assunto questo incarico. O dall'anticrimine, oppure sono ingegneri o tecnici che provengono, che hanno più che provenire, hanno un'esperienza maturata in scuole di natura tecnica. Abbiamo dei ragazzi laureati in ingegneria, abbiamo anche dei semplici agenti che però sono diventati dei maghi nell'utilizzazione del computer, perché particolarmente predisposti o perché sono nativi di internet, perché ormai abbiamo ragazzi di 20-23 anni che già avevano, che hanno iniziato a parlare il linguaggio della rete già da tempo. Senta, quando parliamo di minacce, e nel caso del Centro Nazionale Anticrimine parliamo spesso di aziende, ma poi naturalmente nella vostra attività spesso avete a che fare con le famiglie, con i consumatori finali. Di che tipo di minacce stiamo parlando concreto? Gli utenti sono invece soggetti ad aggressioni di tipo economico, come succede nella vita reale. Vogliono colpire il nostro patrimonio economico, che può essere piccolo o grande, ma che comunque è contenuto sia nel nostro portafoglio, sia in una banca, sia attraverso i nostri titoli di credito, le nostre autorizzazioni di spese. Quindi c'è la tendenza a carpire attraverso la rete, attraverso tecniche di hacker, i dati dell'identità digitale di ciascuno di noi, che servono poi a questi soggetti per duplicare le nostre carte di credito, per duplicare i nostri bancomat e per quindi utilizzarle al nostro posto. Ma non avviene su scala nazionale, avviene su scala planetaria. I dati possono essere stati rubati in un file australiano di clienti di un albergo australiano e spesi in un paese della Calabria, come in effetti è accaduto. Senta, spesso le aziende che si occupano di questi temi, quindi le aziende che producono software per la sicurezza, tendono, a mio parere, ad esagerare questo fenomeno. Nella realtà, come stanno le cose dal vostro punto di vista? Voi avete un punto di vista sicuramente privilegiato, perché lavorate sia sul campo ma anche sulla rete, quindi avete, diciamo, una visione a 360 gradi di questi fenomeni, che spesso appunto avvengono sia sulla rete sia poi nella realtà. Dobbiamo effettivamente temere che possa succederci qualche cosa, o diciamo il pericolo esiste ma è comunque limitato? Ovviamente il pericolo esiste ed è immediato. La fantasia criminale ci sorpassa sempre, non riusciamo mai ad anticiparli veramente nella loro aggressione. Però dobbiamo anche pur dire che chi fornisce servizi in internet, che sono quelli più vulnerabili da questo punto di vista, fornisce anche dei sistemi di sicurezza. Molto spesso però le regole che vengono dettate da chi fornisce servizi bancari anziché da chi vende un prodotto in internet non vengono poi rispettate dagli utenti. E questo crea delle debolezze nell'anello finale, che è l'utente, che l'anello debole è sempre il lato umano. Quindi lei dice che spesso i problemi sono magari enfatizzati da un'incapacità, da una mancanza di cultura della sicurezza. Siamo pronti, preparati a difenderci nella vita normale, mettiamo il lucchetto alla bicicletta, chiudiamo la porta, le finestre, eccetera, eccetera. Online crediamo di essere più protetti, in realtà insomma il pericolo esiste, quindi dobbiamo sempre pensare di prendere contromisure. ...2024. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, 2024 e radio 24.it. La nostra puntata sarà disponibile online sul nostro sito internet a partire dal pomeriggio di lunedì. E questo capita tutte le settimane. Stiamo parlando di sicurezza e anche dell'attività che diventa sempre più importante in internet della polizia. Esiste proprio un dipartimento, una polizia particolare che si occupa della rete internet ed è con noi Domenico Vulpiani, che è il direttore della Polizia Postale delle Comunicazioni in Italia. Abbiamo parlato di questo centro che è stato inaugurato qualche giorno fa a Roma, quindi anche l'Italia si sta dotando di infrastrutture per la difesa delle aziende, anche di quelle che vengono definite infrastrutture critiche, pensate le reti del gas, le reti elettriche, le centrali elettriche, le reti di comunicazione, insomma ci sono tante infrastrutture, il sistema bancario ad esempio, insomma, che devono avere una protezione maggiore rispetto ad altre cose. Dicevo che sta diventando sempre più importante questa attività. Vulpiani, cerchiamo di rispondere anche ad alcune domande, ogni tanto qualche ascoltatore ci chiede: siamo o non siamo, o quanto siamo rintracciabili in rete quando facciamo qualche cosa e soprattutto quando combiniamo qualche cosa di non particolarmente lecito, come succede per molti italiani che ad esempio continuano senza preoccupazioni a scaricare musica. Siamo rintracciabili o non siamo rintracciabili in rete, in internet? Guardi, in internet questo è un tema molto ampio. In internet chiunque entra lascia una traccia all'ingresso. Sostanzialmente, quando noi entriamo in internet, entriamo attraverso una linea telefonica, sia essa wireless, cioè senza fili, sia essa quella normale di casa. Nel momento in cui entriamo, il provider di cui ci serviamo ci assegna un IP, un internet protocol, che è una come se fosse una targa di prova. Noi ovunque andiamo nella rete, con quella targa lasciamo tracce, ma soprattutto quella targa viene assegnata a quel numero di telefono. L'indagine che noi conduciamo è sempre all'inseguimento di questi numeri e risaliamo al telefono da cui è partita la connessione in quel momento e a quell'ora, perché la legge impone a tutti i provider di dare un IP per ogni navigazione. Poi lo stesso IP può essere dato il giorno dopo a un'altra persona. Certo, però alla tal ora, nel tal momento è affidata a quello. Quindi diciamo che noi arriviamo al computer e poi da lì dobbiamo risalire a chi in quel momento ha utilizzato quel computer. Questo quindi gli utenti sono rintracciabili. Ovviamente gli hacker o chi ha una particolare predisposizione usa delle tecniche per potersi nascondere, magari si accredita in un altro sito, in un altro mondo, e sembra che l'attacco provenga da un paese anziché da un altro. Però diciamo l'utente che sta in casa, banalmente, giusto per fare un esempio abbastanza comune, che scarica musica illegalmente, è, nonostante quello che alcuni dicono, rintracciabile. Tracciabile. Ovviamente è tracciabile nel senso che si può risalire non tanto su quello che ha fatto, ma sulla navigazione in quel momento interposto, perché ora la legge impone, il garante per la privacy ha fatto l'ordinanza di cancellare tutti i dati di navigazione, quindi noi risaliamo alla connessione. In taluni casi, con delle tecniche investigative, riusciamo poi a risalire a chi ha fatto che cosa, sempre, però è un po' più difficile, ma ci si riesce. Sulla pirateria però c'è una difficoltà, che i mezzi giuridici per poter fare questo tipo di attività investigativa non sono così forti come in fenomeni come il terrorismo, che ci consentono la navigazione sotto copertura, o come la pedofilia online, perché il legislatore non ha ritenuto di pari livello, di pari gravità. Sì, sì. Senta, il ruolo dei provider, questa è una cosa di cui si discute da tanto tempo, di cui si discute in tutto il mondo. Nella realtà, diciamo, la polizia agisce spesso da sola contro il crimine. A suo parere è utile e quale deve essere il ruolo del provider, che è quello che ci fornisce la connettività in rete? Perché alcuni ritengono che debba sempre essere di più questo ruolo. Ma io sono dell'idea che la polizia non deve modificare le regole del gioco, soprattutto in un gioco democratico, ma deve avere potere di accesso a determinati dati quando esiste un crimine. Ora, tutto quello che avviene in internet viene registrato per ragioni commerciali, per ragioni di business, per ragioni tecniche, se no altrimenti la rete non si tiene, dai provider, da vari nodi specifici. Quando noi cerchiamo di costruire il passato abbiamo un po' di difficoltà, in quanto il garante e impongono la conservazione dei dati solo di accesso alla rete. Però quando iniziamo un'indagine su qualcuno e mettiamo il computer sotto intercettazione, riusciamo a ricostruire tutti i movimenti, perché sono movimenti che vengono ricostruiti sulla base di un decreto del magistrato e per ricercare le prove nei confronti di un responsabile di un reato. Quindi è così, la situazione è abbastanza complessa, ma si può risalire sempre a tutto. Ovviamente nel tempo noi abbiamo sviluppato dei software investigativi che ci consentono in un determinato filone di indagini di conservare tutti i dati e di poterli mettere in relazione. Sì. E lei pensa che sia giusto, corretto coinvolgere sempre più i provider? Cioè i provider sono già di fatto coinvolti, sia i provider sia i fornitori di connettività, cioè chi fornisce le linee telefoniche, perché loro all'interno dei loro sistemi devono conservare i dati per ragioni commerciali. Quindi noi, quando chiediamo l'accesso a quei dati, loro ci devono dare quei dati, perché c'è un decreto del magistrato. Loro non devono fare altro, devono solo registrarli e conservarli, rispettando sia i limiti imposti dal garante, sia i limiti imposti dalla legge giudiziaria. Poi il potere di accesso è nostro, quindi c'è un rapporto di estrema collaborazione con i provider, perché non hanno nessun interesse a coprire i reati di nessuno. Senta, prima abbiamo citato il Centro Nazionale Anticrimine Informatico, voi però avete una struttura che è diffusa su tutto il territorio, cioè mi sembra di capire che ci siano tanti centri che controllano la rete. In generale possiamo dire che abbiamo una buona dotazione, si discute spesso della capacità delle forze dell'ordine di intervenire nella realtà. Ecco, dal punto di vista virtuale, dovremmo fare di più come sistema paese? Siamo arrivati a un buon punto? No, devo dire che non mi piace fare degli elogi alla struttura che dirigo. Diciamo, mettiamola così, la struttura che dirigo io è composta di 2.000 persone, funziona da circa 10 anni. Nel tempo ha selezionato il personale in ingresso, ha investito molto sulla formazione professionale, ha investito molto sui mezzi, ha selezionato le attività investigative riconducendole a sistema. Il primo fenomeno che abbiamo dovuto fronteggiare, che era innegabilmente importante, dava un fastidio terribile a tutti, alle famiglie, è la pedofilia online. In quel settore siamo ai primi livelli nel mondo. Abbiamo un centro per la lotta alla pedopornografia che funge da coordinatore di tutte le investigazioni, abbiamo dei risultati che ci pongono all'avanguardia, però questo non vuol dire che il fenomeno è debellato, anzi è sempre più in aumento, perché siccome è un fenomeno di una devianza sessuale particolarmente diffusa, io non lo credevo all'inizio, man mano che si espande internet si espandono i comportamenti pedofili e c'è sempre di più una produzione domestica, è venuta meno quella commerciale, perché il pedofilo, questa è una valutazione empirica, ricerca sempre nuove immagini, nuovi video, e quindi per ottenerli cerca attraverso la rete soggetti come lui che glieli danno, ma gli altri vogliono un cambio al materiale sempre nuovo, e questo induce in una offerta sempre più vicina al pedofilo. Da voyeur si trasforma in un vero abusatore anche di bambini che hanno la sua disponibilità, e questo è il fenomeno peggiore. Quindi lei dice, in questo campo noi abbiamo, diciamo, siamo arrivati ad un buon livello. Un buon livello, abbiamo avuto anche, bisogna dirlo perché è giusto che sia così, un legislatore estremamente attento e ponderato, a riuscire a darci sempre delle legislazioni, sia sotto il profilo sostanziale di tipo penale, quindi in termini di pene, dei reati bilanciati, ma sia soprattutto strumenti procedurali molto incisivi, attività sotto copertura, acquisti simulati e così via. L'organizzazione di 2.000 persone è diffusa anche sul territorio nazionale, c'è un centro a Roma che è il quartier generale, che è il servizio, e poi abbiamo 20 compartimenti regionali e un'ottantina di uffici provinciali, quindi ovunque c'è la polizia postale. Non abbiamo bisogno di quantità, abbiamo bisogno di qualità, che sulla rete È l'arma vincente. È l'arma vincente. Senta, le faccio un'ultima domanda sulla qualità. Non tanto delle persone che lavorano all'interno, che immagino sia di livello altissimo, ma della qualità che voi trovate sul territorio italiano, cioè quando cercate dei professionisti in questo campo, è facile o difficile trovarli? In genere le nostre indagini sono basate su soluzioni tecniche di software, e abbiamo delle ottime collaborazioni con le università. E i professori universitari, ingegneri di aziende o negli stessi provider, negli fornitori di connettività, abbiamo delle professionalità utilissime che possiamo interpellare quando abbiamo bisogno investigativamente. Lei ha messo comunque l'accento su un fatto che a noi ci interessa molto, è quello di poter, laddove è possibile, servirci di queste professionalità anche in altri settori. Nel campo della pedofilia abbiamo una grande attenzione, perché è un fenomeno che tocca le persone, però anche in altri settori sarebbe utile servirci di queste professionalità esterne pagandole, perché non si può chiedere, e questo è sempre il solito discorso degli investimenti economici in un certo settore. Certo, e in questo campo immagino che sia necessario investire sempre di più. Io ringrazio il dottor Domenico Vulbiani per essere stato con noi, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie a voi per avermi ospitato con la vostra brillante trasmissione. E così concludiamo questa puntata di 2024, torniamo la prossima settimana come sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24, oppure la domenica sera tra le 22 e le 22:45. Se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche a Luigi Borghi in redazione. Ci risentiamo tra 7 giorni. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.